Oggi impareremo un pochino di cose molto interessanti, qui ogni capitoletto è una miniera d'oro. Comincio con l'aiuto del Signore la lettura. Alcune passanti vestite di nero con le gonne molto lunghe e i volti quasi coperti da scialli scuri se ne stavano in piedi, immobili, sullo stretto marciapiede di lastre molto consumate. Tenera madre indovinò la mia domanda e mi rispose: non stiamo nel normale andamento del tempo terrestre. Ci siamo situati nel tempo passato. Siamo nel 21 ottobre 1923. Tenete presente che questa cosa, come abbiamo visto, è la fine degli anni 70. Quindi è passato un po' di tempo. Che meraviglia, risponde lui. Stiamo visitando il passato, stavo visitando il passato. Mi sembrava incredibile, ma davanti avevo l'evidenza. E neanche ci siamo collocati nel ritmo normale del tempo passato. Qui ormai adesso parlerà di cose che avremmo già dovuto un po' familiarizzare, no? Ci siamo messi in un paratempo ancora più lento di quello che ci serviva a Città del Messico. Quindi qui stiamo altro che milionesimi di picosecondo, meno ancora. Ci muoviamo, attenzione, al ritmo di bilionesimi di picosecondo, non milionesimi, ma bilionesimi. Osserva quelle signore vestite di nero. Camminano secondo la cadenza del tempo comune di quella data. Tuttavia, per noi non si muovono, perché il loro camminare è troppo lento paragonato al ritmo del nostro paratempo. Adesso, qui vorrei fare una piccola parentesi, perché dopo le persone dicono che non capiscono tenera amata, ma non è tanto difficile, nel senso che voi capite che. Proviamo a pensare quando noi camminiamo, no? Cioè, per fare un passo ci mettiamo più o meno un secondo, no? Per muovere una gamba nell'atto di fare un passo. Ma se io mi sto muovendo se io sto situato in un paratempo di bilionesimi di picosecondo, vi ricordate che numero che era? Cioè, qui stiamo ad una frazione assolutamente infinitesimale del secondo, d'accordo? Quindi beh, è quasi 0, non si sa quanti zeri. Prima di arrivare a 0,00000000000001. Quindi è chiaro che la gamba è ferma. È evidente, no? Spero di essere riuscito a trasmetterla questa cosa. È chiaro. Perché se io nel tempo per muovere la gamba, per fare il gesto qui, del muovere, alzare il piede, spostare la gamba avanti, appoggiare il piede davanti, quello è un passo, ci metterò un secondo circa. È evidente che se stiamo a bilionesimi di picosecondo è tutto fermo, è tutto immobile. Come era immobile, ricorderemo, il fumo della sigaretta a casa di Riccardo. Chiaro? Quindi questo bisogna. E questo dipende dal fatto che quando si entra nell'aldilà, nella vita eterna e in particolare nella quinta dimensione, le frequenze del tempo sono tantissime e chi vi abita può scegliere liberamente, a differenza di noi. Io non posso fare una cosa di questo genere, non la posso fare, nessuno di noi può farla. Noi ci abbiamo, ricordiamo sempre, la schiavitù. Noi siamo come, ricordate come erano gli schiavi di un tempo? Gli schiavi di un tempo nelle famose galere. Sapete perché la galera si chiama galera, no? Perché le galere un tempo erano le navi da guerra guidate, ai cui remi c'erano gli schiavi. Gli schiavi stavano incatenati al posto loro assegnato e ci avevano un remo che tenevano con due braccia e remavano. Quindi non ti muove da là. Il loro lavoro era, il loro essere schiavi era tirare sto remo e far muovere la galera, appunto, che è la nave data guerra che loro remavano. Per questo si chiama galera anche oggi, no? Perché in galera uno non può uscire dalla galera, sta là dentro, sta rinchiuso. quelli stavano legati con la catena al seggio loro assegnato della galera, con remo in mano. Potevano fare altro. Noi siamo legati in questo modo al secondo. Il nostro tempo in questa vita terrena è l'istante attuale. Però, sapete, no, che per esempio, quando tanti anni fa feci le catechesi sulla musica rock e c'era una sezione dedicata ai messaggi subliminali, i messaggi subliminali, per esempio, agiscono a delle frequenze per noi impercettibili. Voi sapete che prima di vedere una singola immagine, che il nostro occhio sia capace, per esempio, quando chi la vede la televisione, cioè per vedere un'immagine ci vogliono tantissimi fotogrammi appiccicati l'uno all'altro, perché un fotogramma tu non lo vedi. Credo che fino a, adesso non mi ricordo, ma un certo numero basso di fotogrammi appiccicati l'uno con l'altro, il tuo occhio non li vede. La pubblicità subliminale, che è proibita dalla legge, però attenti, che cosa fa? Inserisce, lo fecero con la Coca-Cola negli anni 60, adesso non mi metto a parlare di questo se non finiamo più, però inserisce due o tre fotogrammi dove c'è la famosa bottiglietta di Coca-Cola tutta con le gocce che cadono, gelata. Tu non ti accorgi di niente, ma attenzione, pur non accorgendoli di niente, perché tu non hai la nostra situazione attuale, non è in grado di cogliere questa cosa. Che cosa succede? Che tu però, il tuo inconscio, la tua vista, capta quella cosa e tu vieni condizionato. Ti comprerai la Coca-Cola. Questo è il messaggio subliminale. Quindi non dobbiamo stupirci, dico queste cose perché non ci stupiamo di queste differenti frequenze temporali. Ecco, perché noi in questo mondo, a causa del maledetto peccato, stiamo legati come uno schiavo alla galera all'istante attuale, non possiamo farci niente. Cioè, perché i messaggi subliminali sono proibiti? Perché bisogna stare attenti? Perché non c'è difesa da questi. Perché noi non ce ne possiamo neanche accorgere, purtroppo. Per la nostra schiavitù. Io non posso collocarmi in un picosecondo, neanche in un picosecondo, figuriamoci in bimilionesimi di picosecondo. Non lo posso fare. Non lo posso fare, attenzione, io non lo posso fare, ma la mia anima ha la capacità di farlo. Ma questo non può, non è riservato alla vita del tempo presente. Scusate se mi sono dilungato un po', questo mi dice che ci importa, possono essere particolari un po' tecnici, però molte volte io ho incontrato persone che mi hanno parlato di questo testo, dice, ma io qui mi sono tanti passaggi, non capisco niente, quindi bisogna focalizzare un pochino anche queste cose, quindi il concetto di paratempo, ho già spiegato che para in greco significa presso, quindi è un qualche cosa che sta presso il tempo, nel senso che noi mortali, non lo coglieremmo come tempo che scorre perché sembra immobile, per quanto bassa è la frequenza. Spero che sia leggermente meno complicato. Torniamo indietro. Spiego un po' di più. In questo momento, adesso cediamo la parola a Tenera Amata, io e te viviamo in un'onda temporale molto lenta riguardo al movimento della Terra. Tale onda però è rapidissima per le passanti vestite di nero. Mette la nota Don Pablo. Infatti, in questo lentissimo trascorrere del tempo, si fanno molte cose che richiederebbero moltissimo tempo normale. Quelle che stanno facendo Riccardo e Tenera Amata. È perché loro vivono al ritmo dell'orologio e del calendario. Invece noi ci muoviamo alla cadenza di bilionesimi di picosecondo. Più avanti lo capirai meglio. Spero io di aver contribuito a farlo capire un po' meglio prima di andare più avanti, perché è meglio capirlo subito. Ecco. No, aggiunse nell'osservare il mio pensiero, non voler applicare le classiche equazioni del movimento ondulatorio alle onde temporali non coincidono. Queste formule si compiono soltanto nel momento presente nel tempo normale della Terra. Attenzione. Manca loro di tener conto del parametro della quinta dimensione, come poi vedremo. Con questa nuova coordinata potrai intravedere come è possibile l'aumento della frequenza senza variazioni nella lunghezza e ampiezza delle onde. Inoltre scorgerai la coesistenza di diversi treni di onde temporali. Oh, qui chiaramente sta parlando proprio di fisica allo stato puro, d'accordo? In cui peraltro io non sono un espertissimo. Ecco, so qualcosa, mi ricordo qualcosa, ma io le scienze matematiche e fisiche ci ho sempre avuto un pochino di allergia. Quello che mi ricordo basta per orizzontarmi un po' dentro queste cose, ok? In ogni caso è una legge della fisica e quando cambia la frequenza cambiano anche la lunghezza e l'ampiezza delle onde. Non così nella quinta dimensione. E questa è un'altra dimostrazione, l'abbiamo già visto la volta scorsa, della relatività delle scienze terrene. Per chi conosce, per chi è colto, Kurt Gödel dimostrò all'inizio del XX secolo, attraverso lo spazio cubo, la scoperta delle geometrie dello spazio cubo, la relatività del sistema euclideo, che sembrava insomma una bestemmia assoluta. Ecco, ma questo vale per tutte le scienze, anche le scienze rigorose ed esatte umane. Così facciamo demitizzare un pochino lo scientismo e il culto alla scienza con la H che oggi va particolarmente di moda. Chiusa parentesi, riprendiamo. Il tempo, il nostro tempo, ha una stretta relazione col movimento ondulatorio. Esistono molte varietà di tempo che corrispondono a numerose onde temporali simili alle onde sonore luminose. Per i mortali vige la rapidissima frequenza dell'orologio. I viatori saltano da un secondo all'altro come se calzassero gli stivali dalle 7 miglia, ma non riescono a saltare dal lunedì al mercoledì, né da oggi a ieri. Non possiamo fare questo qui. Vivono con la loro coscienza legata all'istante attuale senza possibilità né di retrocedere al passato né di avanzare più velocemente verso il futuro. Chi sono questi? I viatori, noi, quelli che stiamo nella via, quelli che stiamo in cammino, quelli che stiamo nella prova. Viatori è un termine tecnico molto noto alla teologia cattolica, molto usato, per esempio, uno che amava molto questo termine è San Tommaso. Io prima volta che leggevo la Summa Teologia me lo ricordo, dice, lui parlava tranquillamente con nonchalance dei viatori. Io all'inizio non ho capito, ma chi sono questi viatori? Dopo ho capito dal latino, perché viene dal latino via, no? Viatori sono coloro che stanno sulla via e si distinguono dai comprensori, così si chiamano tecnicamente. Comprensori, cioè sono quelli che comprendono, quindi che vedono l'essenza di Dio perché sono arrivati nella patria, non sono più nel cammino, sono giunti alla meta. Ecco. Scusate queste notazioni, però anche queste credo che aiutino a capire meglio, no? Ed è così fino a quando la buona morte, la morte nel Signore, non viene a rompere questo rigido legame e si ottiene la liberazione. La morte nel Signore, ovviamente. Siamo liberati, siamo liberi. Perché questa è una schiavitù, questa qui, amici. Io non posso, cioè, pensate quando noi, per esempio, stiamo vivendo un momento brutto della nostra vita, un momento di angoscia, un momento che è successo un guaio grosso quanto una casa. E noi non ci possiamo sottrarre a questa cosa qui, eh? E magari pensiamo, oh, quanto stavo bene fino a 2 mesi fa. E non ci puoi tornare a 2 mesi fa. Ti tieni quello che stai adesso. Ma quando sarà finito, probabilmente finirà, al massimo che finisce con la morte, ma tu fino a quando non è finito te lo sciroppi. Non c'è niente da fare. Non vi pare una schiavitù questa qui? Ineluttabile, non ci possiamo fare niente. Quindi la morte, tanto temuta da tanti nel Signore, la morte è una liberazione, anche da questo. Nel frattempo, prosegue, voi vi affacciate appena al passato mediante i centri cerebrali della memoria, che sono come finestrini da dove guardate confusamente la vostra storia. Attenzione, Vi affacciate al passato, vi affacciate al passato. Voglio vedere, siamo in diretta, se qualcuno poi finita la diretta osa dire che si ricorda tutto quello che è successo nella sua vita. Minuto per minuto, secondo per secondo, ora per ora, giorno per giorno. Eppure la vita l'hai vissuta tu, no? Cioè la mia vita l'ho vissuta io. Ma io capirai poi adesso che faccio arrabbiare le persone che mi stanno vicino perché con la vita che faccio, quindi con le sollecitazioni, come dire, pazzesche a cui sottopongo la mia anima, come dire, cosciente nello stato presente, quindi le mie facoltà, la memoria, l'intelletto, la volontà, con le tantissime cose che... Cioè, io capace che non mi ricordo quello che ho fatto 10 giorni fa, ma non capace, non me lo ricordo. E invece mi devo sforzare tantissimo. Cioè, mi ricordo tantissime cose, cioè, capite? Perché la nostra memoria in questa vita è imperfetta, quindi fa delle selezioni. A me a volte non mi credono, dico, mi parlano di una cosa e dico: guarda, che io non mi ricordo. No, tutte. Dico: guarda, che io le bugie non le dico mai. Io in questo momento non mi ricordo. Poi magari se mi prendi in un altro momento me lo ricorderò, ma adesso io non me lo ricordo questa cosa. Quanto posso fare? Non. E qualcuno si avvelena, dico: senti, avvelenate quanto te pare, io non posso mica prendere una rivoltella, non me lo ricordo, che devo fare? Non me lo ricordo. Questo perché, appunto, la nostra, per questo che la chiama così, vi affacciate al passato appena vi affacciate al passato, mediante qualche finestrino, ma è un affacciamento confuso. Cioè, riguardiamo confusamente la nostra storia. È chiaro che poi, però, dentro il deposito della nostra memoria ci sono alcune immagini che rimangono, come dire, nitide, ferme. Sono le cose più significative o quelle su cui siamo ritornati tante volte, perché la memoria per funzionare bene necessita di ripetizioni continue. Ecco, vabbè. Scusate queste cose, però è una lettura un po' meditata e commentata anche per comprendere bene quello che dice, no? Allora, proseguo. Le passanti non possono vederci, ah, perché le nostre immagini, attenzione, rimangono nelle loro retine soltanto alcuni milionesimi di picosecondo. Figurati, se tu non vedi due immagini attaccate, quindi che non stiamo nell'ottica dei picosecondi, siamo in una frazione di secondo, forse sarà un millesimo di secondo, non lo so adesso, ma forse sarà un nanosecondo, ma un nanosecondo rispetto a un picosecondo è una misura molto molto superiore. Quindi a un certo punto poi lui dice: ma come mai questo non ci vedono? Noi siamo qui, questi stanno lì in carne e ossa, come mai che non ci vedono? Non possono. Perché muovendosi in questa frequenza temporale così bassa, dice, attenzione a questo passaggio, le loro retine, voi sapete che noi vediamo perché la nostra retina viene impressionata dall'immagine, no? Ma se un'immagine ti passa per milionesimi di picosecondo, tu non vedi proprio niente. E la frequenza temporale in cui loro stanno, per quanto nel loro punto di vista, infatti Riccardo nota, dice: ma stiamo parlando, stiamo gozando, come fai a dirmi che è passato un picosecondo? Cioè, è così, perché quando ritornerà in sé, vi anticipo la fine, vedrà che la sigaretta era rimasta più o meno dove l'aveva lasciata. E ci sono 100 pagine di roba scritte qui. Noi ha voglia ancora quanto dureranno le catechesi di tenera amata. Questo dobbiamo capirlo, cioè dobbiamo provare a capirlo. Ecco, proprio per comprendere la differenza che c'è tra la nostra dimensione e le altre dimensioni. Spero che si riesca a capire un pochino adesso con qualche spiegazione, no? Ecco, almeno di avercene una rappresentazione mentale. Dice: naturalmente, prosegue, l'acutezza visiva umana non consente di percepire immagini di così breve durata, né le passanti fanno in tempo a muovere gli occhi verso dove stiamo. E quindi sono invisibili. Immaginai che la misteriosa frequenza del tempo normale della Terra è come un angusto sentiero sul quale camminiamo noi mortali, verissimo, ma con abissi insondabili ad ogni lato. E se non cadiamo nel baratro senza fondo è per l'attentissima provvidenza divina. Pensai a come sarebbe terribile una caduta nell'abisso infinito del tempo. Qui chiaramente sta parlando Riccardo, eh? Se Dio non si prendesse cura di noi, resteremmo chissà fino a quando in una di quelle misteriose frequenze temporali, come il paratempo in cui mi trovavo. Non vi è dubbio che la quarta dimensione, la nostra, è un complicato labirinto. Come fa bene Dio nell'impedirci di passeggiare per conto nostro nei paratempi? Ci smarriremmo. Se già ci rendiamo complicata la vita adoperando le tre dimensioni dello spazio, quanto più ci metteremmo nei pasticci se viaggiassimo attraverso le innumerevoli onde temporali. Quindi, cosa sta dicendo? Che in teoria, se Dio non ci avesse chiusi dentro, non ci avesse legato a questa catena, a remo, noi potremmo cominciare a giochicchiare anche con le frequenze temporali, così come giochicchiamo con le tre dimensioni, no? Ah, noi lo spazio lo possiamo abbastanza bene dominare e governare, non ci mettiamo tanto, no? Quindi le cose, come dire, i viaggi, gli spostamenti, le case, la geografia, ma il tempo no. Il tempo non è il nostro potere. Il tempo non è il nostro potere, eh? Noi possiamo solo fare del nostro meglio per amministrare il tempo, quindi la scadenza continua e martellante, ritmica, sistematica dei secondi, e per questo è importantissimo imparare, per chi vuole diventare santo, la gestione del tempo è una cosa fondamentale. Tant'è vero che alcuni grandi santi, guarda Sant'Alfonso, avevano fatto il voto di non perdere tempo. Perché? Perché sapete quanta gente dice, ma come fai a fare tutte queste cose? Cioè, allora, certamente ci sta la grazia di Dio, in primis. Però la grazia di Dio richiede che tu il tempo impari a ottimizzarlo, a usarlo bene, a non perderlo, a non sprecarlo. Anche questo si fa con l'aiuto della grazia di Dio, non si fa niente senza l'aiuto della grazia di Dio. Però questo non avviene in automatico. Perché guardate, questo succede appena tu, abbassi la guardia e allenti un po', come dire, perdi il controllo e cominci ad essere travolto dal tempo che passa, non hai combinato un tubo durante di ogni, o molto meno di quello che avresti voluto, e ti ritrovi con andare a dormire perché non te la reggi più in piedi. Siamo dominati dal tempo. Possiamo dominare lo spazio, entro certi limiti ovviamente, perché non è che possiamo dominare lo spazio delle galassie, ma il nostro piccolo spazio, un pochetto, ma il tempo no. Siamo noi sotto il dominio del tempo, non viceversa. Importantissime queste cose, eh? Meraviglioso davvero il complicato tempo, continua Riccardo esclamando. Ma ancora più sorprendente è la maestosità della quinta dimensione che dovevo poi scorgere. Cominciamo a familiarizzarsi con questo termine. Quinta dimensione, che possiamo anche chiamarla fin da adesso eternità creata. Familiarizziamoci già con questo vocabolario, perché ci accompagnerà per tutta l'opera. Così come con quello di paratempo, di picosecondo, di frequenza temporale, ok? Scusate se sembro un po' pedante, però presto comprovai quello che mi diceva Teneramata. La passante più vicina aveva il piede sollevato come per fare un passo, ma non finiva di farlo. Non ripeto perché ne abbiamo già parlato poc'anzi. Mi viene alla mente che così come quelle donne vestite di nero non potevano vederci, altri visitatori, forse in paratempi più lenti, stessero ad osservarci, senza che Teneramata ed io ce ne accorgessimo. Perché non era logico supporre che noi fossimo i soli viaggiatori attraverso il tempo in quei momenti. Ma se è così, allora il mondo sarebbe come un teatro, e i mortali gli attori, ma senza applausi né fischi. Non glielo domandai perché il suo sorriso mi fece capire che aveva conosciuto il mio pensiero e sentite la risposta. Ma certo, gli disse, innumerevoli beati, viaggiando attraverso il tempo, innumerevoli, contemplano gli avvenimenti quotidiani su questa terra oscurata dal peccato. E non credere che preferiscono osservare gli eventi che i mortali considerano molto importanti, ma quelli che invece lo sono davvero. Aprire bene le orecchie. Glossa mia, ovviamente. Atti di amore e di carità. Atti di amore e di carità vuol dire, uè, compiuti anzitutto verso Dio, eh? Sofferenze sopportate con cristiana fortezza. Culto sincero al nostro Dio. Pace dei viatori santi. La pace in cui vivono i viatori santi. Opere buone praticate, attenzione, senza rumore e senza vanità. Teneramata sta dicendo che i santi si, come dire, infilano in qualche paratempo in modo tale che siano invisibili ai nostri occhi per osservare queste azioni. Non quello che fa il Presidente degli Stati Uniti, non quello che fanno i potenti della terra o anche le alte gerarchie quando fanno le opere sante. Queste sì che lo osservano. Insomma, tutto ciò che è veramente grato al Signore e che appunto per questo ha valore di vita eterna. Abbiamo da poco festeggiato il 1° di novembre. Nel Nuovo Testamento, credo che sia San Pietro, si legge: voi siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Voi che state ancora viatori. Ecco, oggi abbiamo imparato un'altra cosa, che i santi ci guardano, se ci mettiamo in condizione di essere guardati. Ripeto, atti di amore e di carità, sofferenze sopportate con cristiana fortezza, culto sincero al nostro Dio, pace dei viatori santi, opere buone praticate senza rumore né vanità. Senza rumore né vanità, eh? Prosegue. Molti angeli e dei più importanti, così come numerosi umani glorificati, sono tutti attenti alle libere decisioni dei pellegrini mortali. Libere decisioni, amici miei. Libere decisioni. Ho postato ieri un tweet che con mio grande rammarico non ha avuto un grande successo, forse era loro, ma un tweet bellissimo, dove c'è la più bella definizione di coscienza che sia mai stata data da Don Luigi Giussani a proposito di libertà. Che cos'è la libertà? Perché è la libertà che ha immediatamente in causa la coscienza. Sentite che bella questa definizione. E chi c'ha Twitter lo vado a fare riprendere un posto Twitter, perché sapete, su questi social infernali, quando un post non parte alla grande, quindi non viene poi certamente ben, come dire, algoritmizzato, quindi non viene diffuso, è un guaio. Perché rimane morto. Sentite che dice: la coscienza è il luogo dove la libertà dell'io ascolta la voce di un altro con la A maiuscola. Il luogo in cui emerge l'oggettività di un ordine dato oltre sé cui obbedire. Bellissimo. Il luogo di esercitare. Noi la nostra libertà la esercitiamo davanti a Dio. Davanti a Dio. Non davanti agli uomini. Essere liberi significa imparare ad agire sempre sotto gli occhi dell'Altissimo, non sotto gli occhi dell'Altissimo come di un, come dire, di un controllore tipo il mondo orwelliano, no? Che ti controlla e poi no, ma sotto gli occhi di uno che ti ama infinitamente e è che nella misura in cui tu ascolti quello che delicatamente ti dice, ti suggerisce di fare, tu sarai a fare una grandissima vita, una meravigliosa vita, una bellissima vita. Questi angeli e santi che ci guardano giubilano quando vedono l'adempimento fedele della legge del Signore e si deprimono senza però soffrire, giacché nella patria non si sentono le emozioni, attenzione, ma senza nessun dolore. Quando si produce una deficienza morale grave. Attenzione a questo passaggio. Nell'aldilà si sentono le emozioni. Noi a volte ci pensiamo agli spiriti, a questi spiriti disincarnati, eterei, che stanno in una sorta di mondo spirituale atarattico, dove non si sente niente. Quando mai? Le emozioni ci sono, ma non è possibile soffrire. Si provano emozioni, ma senza dolore. Non stiamo a pensare troppo come è possibile, perché se sapessi, se capissimo perfettamente come è possibile, non staremmo sulla Terra, ma staremmo nella quinta dimensione. Se no, ci siamo, quindi, però qualcosa possiamo percepirla, cioè il concetto possiamo afferrarlo. Nella fede è sempre così, eh? Nelle realtà di fede mai noi possiamo comprenderle perfettamente. Possiamo però cogliere l'essenza, qualcosa, la quiddittas, il concetto. E farlo nostro. E non puoi immaginare come corre la voce nel cielo. Il più piccolo viatore che sia fedele cristiano incomincia ad essere famoso nella gloria. Ma ci avete pensato? Famoso, dici, guarda qui, cioè un poveraccio, ma noi queste cose non ce ne rendiamo conto. Pensiamo se qualcuno di quelli che stanno ascoltando queste cose è famoso nel cielo. Perché sta andando alla grande. Se è un fedele cristiano, se è uno bravo, se è uno che mette in pratica la legge di Dio, che mette in pratica anche tutti i suggerimenti che il Signore gli manda, che tende sempre al meglio, al migliore, al più perfetto. Dice, oh, hai visto Nicola? Arcipicchio, hai visto Francesco? Hai visto che sa combinare? Lo dicono i santi nel cielo. Corre la voce, si spargono la voce, dicevo, fatti una facciata, vatti a vedere quello che sta a combinare, di bello sulla terra. Così dice Tenera Amata. E questa è tanta roba, Noi non lo sappiamo, qui un giorno poi lo sapremo, Immaginate uno che ha attirato lo sguardo del cielo, che entra in paradiso, entra alla grande, No, non dico, insomma, come i cortei trionfali degli imperatori o dei consoli quando tornavano dalle battaglie, insomma, però entra la grande, cioè, se è stato oggetto di ammirazione degli angeli e dei santi, insomma, magari si farà un po' di purgatorio, ma poi comunque entra la grande in cielo, entra a punta di piedi. Allora le dissi con ottimismo: non esiste la solitudine umana, non è vero? Infatti, risponde, nessun mortale si trova assolutamente solo. Ah, naturalmente il nostro Dio è sempre con lui. Pensiamoci spesso. In qualunque istante, in qualunque momento della giornata, cioè noi adesso abbiamo i modem connessi, no? Che brutto esempio, che il Signore mi perdoni, però per far capire, se io ho il modem sempre connesso e il computer acceso, che cosa ci metto? Schiaccio un tasto, si sblocca lo screensaver e sto già online. Devo fare niente perché il modem è connesso. Il modem è connesso significa che sta H24 online. Internet è sempre disponibile. Che brutto esempio. Ma Dio è così. E ancora di più, in qualunque istante, basta solo un movimento del pensiero per rivolgerti a lui. Sempre presente, sempre con noi. Qui si coglie anche un po' Pensiamo all'atto di fusione nella Divina Volontà. Gesù, facciamo tutto insieme, tutto insieme. Inoltre sono di solito presenti diversi angeli e umani glorificati. Vicino a noi, ce lo sta dicendo probabilmente molti di essi, figuriamoci se abbiamo un nostro caro glorificato che non viene vicino a noi. Qui ci sta dicendo delle cose belle, tenera amata. Sapeste quante volte a me, che sono un prete, vanno a dire: ma è morto, ma mio padre mi vede? Mi sente? Dico: ma figlio, dico, certo, dico, come fai a pensare di no? Tu non vedi e non senti lui, ma figurati lui nella dimensione in cui è entrato. Ovviamente si è salvo, speriamo. Attenzione. Come è logico, loro non interferiscono mai direttamente nel divenire storico e libero dell'umanità viatrice. Invece pregano il Signore per essa. Più avanti dice: perché non interferiscono? Perché non devono interferire, perché l'interferenza altererebbe le dinamiche di libertà. Cioè, oggi Tenera Amata ci ha detto questa cosa, no? Però noi ce la possiamo dimenticare. Tu pensa se noi ci vedessimo degli angeli vicini, che se faccio una marachella si mettono le ali davanti agli occhi, adesso dico una cosa tanto, tanto per dire, no? Cambierebbero tante cose, ma se no sarebbe meglio così, non le faccio. Non è vero manco per niente. Perché la tua, cioè, allora, anche nell'imparare che una cosa che tu fai e che ti sembra che non c'è niente di male, in realtà è una marachella, richiede l'esercizio della libertà. L'impegno a stare in formazione continua, l'impegno ad ascoltare la voce di Dio che ti parla nella coscienza. E che se una cosa è una marachella, sta tranquillo che se tu sei aperto, delicatamente te lo fa percepire, te lo fa notare. Perché tu liberamente quella cosa cominci a dare una marachella, cercheremo di evitarla. E questo va a tuo merito. Va a tuo merito sia l'aver ascoltato la voce di Dio che ti dice: questa è una marachella, uno, ascoltarla, due, accoglierla, tre, agire di conseguenza. E questi sono gradi di gloria più grandi in cielo, amici miei. Troppo facile che l'angelo si mette le mani davanti alla faccia, davanti a me, e io così quella cosa non la faccio più. Non, capite che mancano tutti e tre questi passaggi: la ricerca e quindi la scoperta, quindi, e la presa di coscienza, il riconoscimento di questa cosa, e poi l'azione libera, dice: beh, adesso cercherò di evitarla. L'universo dei beati è molto interessato ai mortali e perciò è loro impossibile dimenticarli. Attenzione adesso, questa è un'altra chicca. E perché tanto interesse? Perché ogni viatore, dice Tenera Amata, è o può diventare un figlio adottivo dell'Altissimo per mezzo della sua grazia e quindi una fonte di gloria per lui. Attenzione, ma siccome la gloria divina riverbera nei beati, giacché l'Altissimo ci rende partecipi della lode universale che riceve, è logico che i santi del cielo facciano molta attenzione a tutto quello che potrebbe aumentare il celeste gaudio. Mi rifermo. Che ci sia un beato in più in paradiso, per i beati stessi non è la stessa cosa, oltre che per l'Altissimo. Perché un beato per essere tale vuol dire che ha dato gloria a Dio, vuol dire che ha accresciuto la gloria accidentale di Dio e questo riverbera come delizie, come benefici e godimenti su tutti gli altri beati. Capite? Se tu non diventi santo, o stasera ti do un bel carico, danneggi pure il prossimo, oltre che danneggiare te stesso. Privi il prossimo di alcuni beni. Vatti a confessare. Vatti a confessare. L'Altissimo ci rende partecipi della lode universale che riceve. Partecipi della lode universale, cioè la gloria accidentale dell'Altissimo, ci sta dicendo, è da lui partecipata ai beati, che infatti anche beati, oltre alla gloria essenziale, che è l'ingresso, la partecipazione, la visione della gloria che a Dio appartiene in quanto Dio e che non gliela toglie nessuno, ma ci abbiamo anche la gloria accidentale, cioè il godimento di tutta una serie di accessorie cose bellissime e che integrano e che sono appunto accidentali. Ah, nel senso latino del termine accedere significa stare attaccato a, perché sono un corollario, un contorno della gloria essenziale, che è la prima. Dice, quindi pensa, quando credi di essere solo, che molti occhi intellettuali ti stanno amorosamente osservando e desiderano con fervore che tu ti comporti in quel momento d'accordo con la legge del Signore, e la gloria che tu otterrai si ripercuoterà negli altri beati. Bisogna ricordarlo questo qua, amici cari. Succede la stessa cosa con tutti i mortali della terra? Risposta. Quanto più è cristianamente umile il viatore, maggiore è il numero di spettatori che ha. Perché più grande è la probabilità di dare al nostro Dio lodi di gloria per mezzo delle opere di amore e di carità e perciò a tutti i beati. Quindi capite, più umili diventiamo e più spettatori ci abbiamo. Mo oggi tutti quanti sono presi dalla moda del faccio il video su TikTok e vediamo quanti spettatori ho riscontrato. Carico il video su YouTube e vediamo quante visualizzazioni. Oh, oggi abbiamo imparato che ci sono altre visualizzazioni ben più importanti. Ma tu ti immagini se San Francesco sta a guardare quello che stai a fare tu? Cioè, insomma, San Francesco o Padre Pio? O la Madonna? Boom! Come, o San Giuseppe? Devi sapere che la gloria accidentale, cioè la felicità che nel cielo causano le creature, non il creatore, rassomiglia all'ambiente della terra. Se qualcuno lo inquina, tutti ne risentono, ma se c'è chi lo purifica ed arricchisce, il beneficio è per tutti. Alcuni istanti di paratempo, considerai che dovevo essere molto attento alla mia condotta privata, già che qualche beato potrebbe osservarla. Ciò che non pensavo è che Dio mi guarda continuamente. Dobbiamo pensarci a questa cosa, eh? Un tempo sulle porte dei monasteri, io l'ho visto, per esempio, se uno va a visitare a Città di Castello, il monastero di Santa Veronica Giuliani, lo vedrà questa cosa qui, no? Sulla porta la scritta Dio ti vede. Ma anche qui non è la scritta. Già sento le voci di certi dottoroni attuali. Dice, ah, Dio ti vede, ah, che cos'è qua? Ah, uno deve stare sulla cappa, sotto la cappa di questo supervisore che controlla e fischia tutte quante le cose che non funzionano. Mamma mia. Mamma mia, no? Allora, facciamo in tempo a introdurci anche al capitolo 12. Teneramate ed io continuavamo in piedi sullo stretto marciapiede di ponente di via dell'Indipendenza nella San Luis Potosí del 1923. Vuoi affacciarti alla casa delle signorine Campos? Propose la mia amata morta. La chiama così, faccio un sacco di risate. Eravamo di fronte alla casa di quelle signorine. Era una modesta casa in un rione umile di San Luis, ma con l'aria di essere abitata da gente almeno un po' benestante, due finestre con inferriate sulla strada. corrispondente ad un piccolo salotto, spalancate con tendine comuni e logorate, vecchie tende raccolte affinché dalla strada i passanti potessero godere di un po' di musica casereccia. Guardate dalla finestra e contemplate uno spettacolo che mi sbalordì. Lo avevo già visto, anzi vissuto, molti anni prima. Vidi una decina di persone, la maggior parte donne, sedute ed immobili attorno alla stanza, tutte vestite di colore scuro e in contegno molto modesto. Le osservai meglio e sì, riconobbi le signorine Campos, discretamente ornate. Mi stupii perché so che attualmente non c'è più nessuna di loro. Dopo, quando Tenneramata mi spiegò la maestosa quinta dimensione, intravidi la spiegazione del prodigio. Che meraviglia! C'era lì la mia nonna paterna, morta 30 anni fa. Dico, impossibile comprendere ciò che mi stava accadendo. Era una visione misteriosa del passato e del presente. Ma il passato risultava molto attuale. Ritornavo io non soltanto a ricordare, attenzione a questo passaggio, ma ad assistere a ciò che avevo già vissuto molti anni addietro. Il passato era così reale che mi riusciva difficile accettarlo come già accaduto. Solamente il recinto lo trovavo più stretto. Attenzione. Domanda. Che idea ci abbiamo noi del passato? Qualche cosa che è accaduto e che è finito? E che l'unico modo per rievocarlo in qualche modo è ricordarlo attraverso la memoria, con quei ricordi che spesso sono sbiaditi? No, amici cari, non è così. Il passato è passato solo per noi, che stiamo legati all'istante presente. Ma quando saremo slegati, il passato non è più passato. È la quinta dimensione, è l'eternità creata. Che si chiama appunto eternità creata perché? Perché a differenza dell'eternità increata, tanto torneremo su questi concetti perché ne parlerà esplicitamente te Teranamata, l'eternità increata è quella di Dio. E io sono colui che sono, l'eternità increata. Però tutte le cose che Dio ha creato fuori di sé, che hanno cominciato ad esistere nel tempo, ogni secondo, ogni istante, mano a mano che si svolge, per noi diventa passato, ma per Dio e per i comprensori diventa eternità creata. Perché tutto ciò che è non può essere annichilito. Non può finire, non può tornare nel nulla, non può essere un ricordo. Riprendo la lettura. Lui è stupito del passato che sembra così reale. Dice, ma non poteva pensare che fosse un'illusione, perché la realtà era troppo oggettiva. Non era il ritratto di mia nonna materna che io guardavo, ma lei stessa, viva e corporea, benché immobile. C'erano anche, come state inalterabili, le mie zie paterne scomparse ormai da molti anni. Che gioia rivederle e salutarle! Non illuderti, mi avvertì Teneramata, potrai soltanto guardarle, non toccarle, perché sono ormai già glorificate e il contatto con loro ti ucciderebbe di felicità. Anche qui. Capite? Attenzione, lui le vede così come erano nel 1923. Dice, queste però sono morte, è vero, sono morte. E quindi però, attenzione, quell'istante che stanno rivisitando, siccome quelle sono morte, se tocca loro, una di loro, dopo che sono morte, le sta toccando nella loro condizione di glorificate. Glorificate come? Glorificate, eppure siamo nel 1923. Sì, glorificate, siamo nel 1923. Perché un'anima glorificata, come vedremo, ha il possesso perfetto di tutti gli spazi-tempi, cominciamo a familiarizzarsi anche con questo linguaggio, della sua esistenza. Tutti. E quindi se la tocca, dato che si trova in quella condizione, la felicità lo ucciderebbe. Noi non possiamo avere, ho detto tante volte, contatti ed esperienze troppo forti con il cielo, non perché Dio non ce lo vuole dare, ma perché non siamo in grado di reggerli, non abbiamo la capacità, moriremmo di felicità in questo mondo. Dice, ma tu mi hai toccato e anziché uccidermi mi rinvigorisci. Risposta è che loro non ti accarezzerebbero con prudenza. Nel riconoscerti ti abbraccerebbero piene di gioia e questo contatto ti farebbe morire irrimediabilmente di felicità. Per la stessa ragione che il nostro Dio, quando accarezza l'anima di un mortale, lo fa molto lievemente e fugacemente. Oh, attenzione, Dio ci dà un po' di carezze. Lo fa però lievemente e fugacemente. Il Signore vorrebbe certamente reiterare la carezza, ma il denso smog del peccato glielo impedisce. Cioè il Signore deve andarci piano con noi. Pensate, anche se vorrebbe andare molto più forte, perché? Perché altrimenti anziché farci del bene, quindi farci sentire quella delicata e impercettibile carezza, ci farebbe del male. Oh, vi invito dopo questa catechesi di andare a ritrovare un pezzo di quando io ero bambino. Chi se la ricorda? Quella carezza della sera dei New Trolls. Ricordate, è bellissima. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura. Ecco, quando si sente dire quella carezza della sera, pensiamo che potrebbe darcela anche il nostro Signore. È così, eh? Ha detto Teneramato, non l'ho detto io, eh? E per quale ragione nessuno di loro si muove? Per la lentezza del nostro paratempo. Dice, oh. La capoccia, gliel'ha già detto. In confronto alla cadenza del tempo ordinario della Terra e al ritmo velocissimo in cui tu ed io ci muoviamo. Non ti meravigliare che coincidano due ritmi temporali molto diversi. Se in una piscina tranquilla tu butti due pietre, ognuna in un'estremità della stessa, si formeranno treni di onde diverse e persino opposte, ma coesistenti. Immaginate questa scena. Ebbene, le persone che si trovano nel salotto vivono in onde di tempo differenti dalle nostre. Riprende Riccardo. La mia nonna paterna, le mie zie, così umile e cortese, così affettuose come furono con me. Stavo per dire poverine, ma no, essendo ormai qualificate, piuttosto povero me, che sono ancora viatore. E chi è quel bambino molto stupito presso il pianoforte? Dice Teneramata. Mi domandò Teneramato con un certo tono scherzoso. Era un ragazzino di 8 anni, grassetto, che infatti aveva l'espressione di sbalordito. Lo guardai meglio. Ed ero proprio io. Sì, io stesso nella mia infanzia. Adesso il più stupito ero io. Anziano. No, no, no, ciò non era possibile. No, no, ciò non era possibile, comincia a pensare Riccardo. Era completamente assurdo. Cioè, si trattava sicuramente di una strana allucinazione, dovuta alle meraviglie che mi accadevano in questo paratempo. La mia logica mi assicurava dell'impossibilità reale di ciò che vedevo. Cioè, no! Immaginate la scena. Cioè, immaginati se tu adesso ti vedi realmente, non è che tu ripensi a quando avevi 5 anni, ti ritrovi nella frequenza temporale, io devo andare nel 76 per trovarmi a 5 anni, e mi trovassi lì e mi vedessi a 5 anni con i pantaloncini corti e con le scarpette con gli occhi che sto correndo per il giardino di casa e mi vedo reale, che se mi avvicinassi potrei toccarmi. Capite? Tutto l'essere sbalordito, no? Dice, no, no, no, semplicemente non potevo comprendere che io, il vecchio, stessi a guardare dalla finestra niente di meno che me stesso. Il bambino in piedi accanto al pianoforte. Nonostante tanti prodigi, non potevo sopportare quest'ultimo che superava la capacità del mio intelletto. Leggo un po' velocemente che dobbiamo chiudere. Non ti meravigliare, cercò di quietarmi Teneramata molto commossa. Quel bambino sei tu. Ricorda che stiamo visitando il passato. Sei tu stesso 48 anni fa. Quindi Riccardo c'era 56 anni, poco più grande di me. Mi dispiace, ma non posso crederti. Io sto qua sulla strada e quel bambino è nel salotto vicino al pianoforte. È vero che nei ricordi mi rassomiglia molto, ma nient'altro, nient'altro. No, amore mio. Sentite come lo chiama, amore mio. Amore mio, Non era la moglie, eh? Attenzione. Quel ragazzino e tu siete la medesima persona. La stessa anima spirituale sta animando quel bambino e attualmente anima te. Tanto riprendiamo la prossima volta da qui, eh. La tenerezza della mia bella amica aveva demolito tutte le mie obiezioni. La dolcezza frantuma le rocce. E benché il mio intelletto dubitasse, il mio cuore si era convinto. Quel bambino ed io eravamo assolutamente la stessa persona. Attenzione! La tua anima spirituale sta animando quel bambino e attualmente anima te. Cominciamo a fare qualche sforzo, eh? Tuttavia, com'era possibile, Riccardo, che un'unica anima vivificasse due corpi diversi? Il mio corpo infantile e quello attuale non si somigliano in nulla. Sono essenzialmente differenti non solo in età, peso e statura, ma anche nelle fattezze, nella materia stessa. È vero che molto tempo fa io vissi una situazione simile qui in casa delle signorine Campos, che stetti in piedi presso il pianoforte e che mi innamorai della splendida ragazza quando lei vicino a me cantò la Pacarera. In quell'occasione indimenticabile. Ma ciò che sta succedendo adesso, pensai, è una strana coincidenza di circostanze. Comunque forse un'energia sconosciuta mi spingeva verso il bambino. Credetti che tenera amata cercava di rappresentare, come nel cinema, l'evento accaduto 48 anni prima. Quindi pensava che fosse un film. Ringraziai di cuore il suo amoroso tentativo e perfino pensai di tenerle il gioco per continuare in quella specie di illusione d'amore. Fu poco dopo, quando la mia amata morta mi permise di scorgere il portento della quinta dimensione, che compresi la soluzione dell'enigma dei miei due corpi in esistenza simultanea. Non c'è molto da commentare. Ci lasciamo così. Familiarizziamo con queste cose. Due corpi in esistenza simultanea. Una persona di 58 anni che vede il suo corpo di bambino non come un ricordo lontano, ma come qualche cosa che potrebbe toccare e parlarci nel momento presente. Teniamolo presente perché sarà molto utile per le prossime puntate, a cui vi do, se credete, appuntamento. Dio vi benedica e sempre la Madonna vi protegga. A presto.